Today, we shall continue with our short seven-year series of Dhamma talks on the three roots of unwholesomeness, as well as Satna, the three roots of wholesomeness. Yesterday's talk focused on the roots of greed as the first root of unwholesomeness. Today's talk will emphasize hatred as Satna, the second root of all unwholesomeness. Oggi continuiamo con la nostra breve serie di discorsi sulle tre radici della non salutarità e sulle tre radici della salutarità. Ieri abbiamo parlato della prima radice della non salutarità, cioè la prama, mentre oggi approfondiremo la seconda radice, quella dell'odio o avversione. Now, when this passage or this gatha from the Samyutta Nikaya states for a long time that this mind has been defiled by greed, by hatred, by delusion, this refers not only to our very present existence, but it may very well also include earlier existences. Questo verso del Samyutta Nikaya che dice che per lungo tempo la mente è stata inquinata dalla brama, dall'odio e dall'illusione, quando in questo verso si dice per lungo tempo non si intende solo durante questa vita, ma per lungo tempo nelle vite passate. One of the main references for these roots of unwholesomeness and wholesomeness is certain to the Digha Nikaya, the so-called Sanghittita Sutta. Uno dei riferimenti rispetto a queste tre radici della non salutarità e le tre radici della salutarità viene da Digha Nikaya. The Sanghiti Sutta. Sanghiti Sutta. Yes. And there it says, as stated early on, there are three roots of the unwholesome: greed, hatred, and delusion, and there are three roots of wholesome: non-greed, non-hatred, and non-delusion. Si dice che ci sono tre radici della non salutarità, la brama, l'odio e l'illusione, e ci sono tre radici della salutarità, non brama, non odio e non illusione. Now, the Pali term mula, meaning roots in English, was briefly defined yesterday. Allow me to elaborate on this just a little bit more. E ieri ho spiegato questo termine mula, cioè radice, ma permettetemi di approfondire un po' di più questo concetto. So that Satna term, the commentaries explain, has Satna the sense of a firm support or cause, condition and producer. I commentari lo definiscono come il sense, the sense of? A sense of firm support. Un senso di una ferma, di un solido sostegno. A cause, una causa, a condition, una condizione, and a producer, e un effetto. The figurative character of Satna, the term, may also suggest that the term means something like the nourishing sap of the wholesome as well as the unwholesome. Scusate, è un produttore, non un effetto. E questo termine, fornendo questa immagine figurata della radice, suggerisce anche l'idea di qualcosa che nutre il non salutare, così come il salutare. No, Yesterday, the emphasis was on greed, today on hatred. Both of footnote, these mental states are unwholesome mental states. So they come under the category of akusala. Ieri l'enfasi è stata sulla brama, questa sera invece ci focalizzeremo sull'odio. Entrambi questi stati mentali sono stati mentali non salutari e quindi rientrano nella categoria di akusala. And so this unwholesomeness, an unwholesome state of mind, then has been described as an unhealthy and or sickly state of mind, gelanya in the Pali scriptural language. La non salutarità è stata descritta come uno stato mentale non sano. Mm-hmm. And certainly it has been further described as morally faulty and blameworthy, and having unpleasant or producing unpleasant karmic results. Ed è stato definito anche come moralmente riprovevole e con effetti karmici negativi, spiacevoli. And certainly all actions by body, speech and mind that are based on greed, on hatred or on delusion will then lead to unskillful responses to life. E qualunque azione compiuta tramite il pensiero, la parola o l'azione basata su odio, su brama, odio e illusione, avrà dei risultati, porterà a una non abile azione. You said that unskillful? Yeah, unskillful response to life. Ad una risposta non abile alla vita. So dosa will determine determine the quality of our volitional states, and those in turn will determine our actions. Quindi dosa, odio, avversione, determinerà la volizione e le corrispondenti azioni basate su questa derivanti da questa volizione. No, as for ignorance, it underlies all unwholesomeness, whereas greed and hatred stand as certain two opposites, and as attraction and repulsion. E l'ignoranza è uno stato che sottostà a tutti gli stati non salutari, mentre brama e avversione sono due opposti e quindi corrispondono ad una attrazione o a una repulsione. Now, out of greed we like something, out of hatred we dislike something. Sulla base della brama qualcosa ci piace, mentre sulla base dell'avversione qualcosa non ci piace. Out of greed there may be love for something, and out of hatred will be anger towards something. Dalla brama sorgerà dell'amore per qualcosa, e mentre del desiderio per qualcosa, mentre dall'odio deriverà rabbia. Various illustrations have been given in the text Satna for hatred. It's Satna referred to as Mara's prisoner. Mara is Satna, the force of temptation. It has also been referred to as a fire, dos agni, in the Pali scriptural language. Sono state fornite nei testi diverse immagini per descrivere e rappresentare il dosa, l'odio, l'avversione. Una di queste lo definisce come il carceriere di Mara, e Mara è una sta per il tentatore, e un'altra immagine è quella di un fuoco. And certainly, so this fire of hatred is certainly said be an all-consuming fire. E questo fuoco dell'odio è un fuoco che consuma totalmente, che consuma tutto. Now, not necessarily included certainly in the text is certainly an illustration of or illustration for hatred by way of an erupting volcano. Un'altra immagine è quella, vede l'odio come un vulcano in eruzione. So, hatred, as many of you will know, at times can extremely quickly turn from just a little bit of aversion, irritation, into a terrible rage and explosion. E come molti di voi potranno sapere, l'odio ha questa qualità di potersi trasformare rapidamente da una lieve irritazione ad una forte esplosione di rabbia. Of course, here in Italy this doesn't occur. Naturalmente in Italia questo non capita. Yes, no. Anyways, a modern illustration for hatred would be, it's like a time bomb. Anytime it can go off. Un'immagine moderna che possiamo utilizzare per l'odio è quella di una bomba orologeria che può esplodere in qualsiasi momento. No. Yesterday, greed was referred to as a foe, as an enemy, adversary, and that same passage from the Iti Uttaka 88 also speaks of hatred as a foe. E ieri abbiamo definito la Brahma come un nemico, un avversario, e nello stesso sutta anche l'odio è definito come un avversario, un nemico. And so we have three verses with regard to hatred. Ci sono tre versi relativi all'odio. Hate is a cause of harm, unrest of mind it brings. L'odio è una causa di danno e porta irrequietezza, un'assenza di quiete nella mente. Mm-hmm. This danger that has grown within blind folk are unaware of it. This danger that has grown within. Mm-hmm. Questo pericolo che è cresciuto all'interno, interiormente. Blind folk, blind people are unaware of it. Quindi di questo pericolo le persone cieche sono inconsapevoli. A hater, a person who hates, cannot see the facts. Una persona colta dall'odio non riesce a vedere i fatti. Nor can he or she understand the Dhamma. Né è in grado di comprendere il Dhamma. When hate has overpowered a person, quando l'odio ha sopraffatto una persona, in complete darkness he or she is plunged. Costui è immerso nella completa oscurità. Mm-hmm. But he or she who does not hate and can forsake. Ma colui o colei che non odia, can? Cannot hate and can forsake, can give up. Mm-hmm. E che non odia e che può rinunciare, lasciare andare. This hatred and what incites to hate. E può lasciare andare questo odio e ciò che conduce all'odio. Mm-hmm. For him or her, hatred quickly falls off. Per lui o per lei, l'odio rapidamente cade. As from a palm tree falls the ripened fruit. As from a palm tree falls a ripened fruit. Così come da una palma cade il frutto maturo. Now, hatred comes in many different manifestations, and let's briefly hear from your side a few of those. So in your own practice, in your own life, which forms of hatred have you experienced lately? L'odio si manifesta in tanti diversi modi e forme. E vorrei sentire da voi in quali modi si manifesta nella vostra pratica e nella vostra vita. In quali modi si è manifestato ultimamente? Aversion. Come avversione? Yes. Anything else? Anger, yes, sure enough. Rabbia. Repulsion. Repulsione. Uh-huh. Any other form? Qualche altra forma? Irritation. Yes. L'irritazione. Uh-huh. Aggression. Yes. Aggressività. Ah, lots of that, yes. Bitterness. Un senso di amarezza. Now, there are many other, and allow me to, or let us go through the list as quickly as possible. There's plenty, well, maybe I'll just select a few. And the list is based partly on the Dhamma Sangani, which is the first Abhidhamma volume, and partly on a collection which Venerable Uvisuddhachara, a meditation teacher, has put together many years ago. E quindi ci sono tanti altri modi in cui si manifesta l'odio e citerò almeno alcuni di questi, avendo come fonte il primo testo dell'Abhidhamma, Dhammasangani, e un e una lista compilata dal venerabile Uvisuddhachara. Yes. So the Dhammasangani says that which at that time is hatred, having hatred, being given to hatred. Il Dhammasangani dice che that which at that time is hatred, simply just hatred. Quindi ciò che è odio, having hatred, e che ha odio, being given to hatred, e che è dato all'odio, being upset, essere contrariati, and being prone to getting upset, essere disposti pronti, veloci ad essere contrariati. Mm-hmm. Opposizione. Rudeness. Rudezza. Displeasure. Quando qualcosa non piace. Mm-hmm. And then the Dhammasangha Nityan, contains an interesting aspect. Namely, it says anger hindering coherent speech. So we end up, when we're fully overwhelmed by anger, we start stuttering, and we can't complete sentences properly, etc. E un'altra cosa che è interessante, che è citata nel Dhammasangani, è che l'odio ostacola una parola coerente, cioè quando si è sopraffatti dall'odio si inizia a parlare senza in maniera sconnessa. Now, other terms that Sadhu Venerable Visuddhacharya has compiled are malice. Mentre il venerabile Visuddhacara nella sua lista compaiono anche i termini di malizia, and cruelty, crudeltà, brutality, brutalità, then frustration, frustrazione, resentment, risentimento, prejudice, pregiudizio, intolerance, intolleranza, impatience, impazienza, being furious, essere furibondi, being enraged, essere arrabbiati, boiling, bollire, being vengeful, essere wanting to hit back, vendicativi, being sarcastic, essere sarcastici. And then there are still some other forms, more subtle forms of anger, such as being sullen. Sullen is like. Beh, potete capire. Ci sono anche forme più sottili di odio. And certainly then, giving a person the silent treatment. So you're angry with another person, but you're not yelling at the person, but you stop talking to him or her. And in this way, he or she gets the point. And if that happens for 5 days or 7 days in a week, you have a problem. E un'altra forma è quella di dare a una persona il trattamento del silenzio, cioè si è arrabbiati con una persona, ma invece di urlarle contro, semplicemente si smette di parlarne, si tiene il silenzio. Se questa cosa va avanti per 5 o 7 giorni, beh, c'è un problema. So there's a huge variety of forms of hatred that's occurs on occasion. Quindi c'è un'enorme varietà di forme di odio che si può verificare man mano. And it's certainly worth looking at the Srimanga definition of hatred, and it says its characteristic is savageness, is ferocity. E vale la pena dare un'occhiata alla definizione che ne è data nel Visuddhimagga. Si dice che la sua caratteristica è l'essere selvaggio e la ferocia. And it's compared to, or it's like a provoked snake that is ready to bite. Ed è come un serpente che è stato provocato ed è pronto a colpire. Now, two functions are being mentioned with regard to hatred. The first one is to spread, like a drop of poison would suddenly spread. E ne vengono date due funzioni. La prima è quella di diffondersi, così come si diffonderebbe del veleno. And the second function is to burn up its own support. The own support is one's own body and mind, just like a forest fire burns up its fuel, namely all the trees and bushes. E la seconda funzione è quella di bruciare il suo sostegno, e cioè si intende il corpo e la mente, proprio come un incendio nel bosco brucia completamente il suo carburante, cioè il bosco stesso. And that it is manifested as a persecuting enemy who has a chance to get at the other person. E si manifesta come un nemico che ha la l'opportunità di raggiungere, di cogliere l'altra persona, sì, la persona di cui è nemica. The proximate cause for the arising of hatred is given a cause or a ground for annoyance. Agata watu in the Pali scriptural language. E la sua causa prossima è la presenza di un terreno per annoyance. Ground for annoyance. Yeah, but and so, there are many grounds for annoyance. I'll mention those. Yeah, but annoyance. I'm not sure which translation used for annoyance. Oh, annoyance. Sì, irritazione, diciamo, una. Yeah, you go for that. Sì, un fastidio. And among the different causes for annoyance that we have. No. Thinking the thought that a person has done me an injury, a person is doing me an injury, or a person will be doing me an injury. Quindi questi terreni per il fastidio sono il pensiero che una persona mi ha danneggiata, che una persona mi sta danneggiando, e la terza è che un'altra persona mi danneggerà o mi ferirà. And so, those are three causes for the arising of hatred. And suddenly, there's still further causes for hatred, namely, when someone does something, will do injury to someone who is dear to us. So let's say a family member or a friend, that or two may be enough for us to explode. Quindi queste sono tre cause per il sorgere dell'odio. E altre tre cause sono il pensiero che una persona sta ferendo o ferirà una persona che a me è cara. E anche questa è una base per poter esplodere di odio e di rabbia. No, still three further causes are being mentioned in that Sangiti Sutta. Namely, we have an enemy. And suddenly someone comes and has done, is doing, and will do a favor to our enemy whom we hate. E altre tre cause sono menzionate. Poniamo di avere un nemico e che ci sia un'altra persona che favorisce questo nemico. Che favorirà questo nemico, e queste sono altre tre cause per il sorgere dell'odio. No, those are some nine causes for the arising of anger or malice. Apart from those, we have other factors that trigger anger, namely particular mental states. Among those, wrong view is being mentioned first. Quindi queste sono, abbiamo così nove cause per il sorgere della rabbia, ma ci sono anche altre cause e altri stati mentali che innescano la rabbia. E il primo di questi ad essere menzionato è la visione erronea. So to give you a specific example for this, if a group of people thinks that or believes that all non-believers should be killed, so that's a wrong view that contributes then to hatred. Per farvi un esempio, una persona ha una certa credenza e ritiene che tutte le persone che sono non credenti meritano di essere uccise. Quindi questa è un esempio di rabbia che sorge sulla base di una visione erronea. Other factors, certain events that might contribute to the hatred are envy and stinginess. E altre cause per l'odio sono l'invidia e la stinginess. Filorceria. Avarizia, no? As well as worry, those certain three are always associated with hatred. E anche la preoccupazione, queste tre sono sempre associate all'odio. Now, the Venerable Mahasiddhanta of Burma, in one text, has certain remarked or observed that the hatred easily arises with regard to one of the six saints' doors. Which one would you think is this? Il venerabile Mahasiddhanta ha notato che la rabbia sorge hatred. Is that hatred? Yeah. Yeah. Che l'odio sorge sempre in relazione a una delle sei porte dei sensi. Quale di queste sei? The ear. Yeah, that's correct. The ear. So, upon hearing, let's say, inciting language, provocative, aggressive language, that may trigger hatred. Si tratta dell'orecchio, quindi la porta dell'orecchio, dell'udito. Quindi sentire delle parole provocatorie, questo fa scattare odio. Now, out of hatred, serious, or because of hatred, serious consequences might certainly be there, such as an act of killing in the worst case takes place. E sulla base dell'odio possono verificarsi delle conseguenze pericolose, in casi estremi si può arrivare ad uccidere. Now, when we have acted out of hatred and for instance, or a person has taken the life of another human being, then there will be serious consequences for that person, and most likely the person will fall into a state of loss in a future existence. Se si agisce sulla base dell'odio, se arriva ad uccidere, ci saranno delle conseguenze serie per quella persona e in una successiva esistenza cadrà in stati di perdita nei rami inferiori. Still one more cause for hatred based on modern science is when the temperature rises, so when it gets hotter and hotter in any place, then this tends to lead to an increase of the crime rate. E c'è un dato che ci arriva dalla scienza che dice che quando aumenta la temperatura in un determinato luogo, qualunque sia, c'è un aumentare del tasso di criminalità. Now, hatred is sadness among the three roots of all unwholesomeness, is seen as, or some one is seen as a lesser fault, and two are seen as a greater fault, and hatred is one of those that is a greater fault. Sorry, I lost the beginning. With regard to the three roots of all unwholesomeness, one is considered a lesser fault, namely greed. Okay. And hatred plus ignorance, both are considered greater faults in terms of public opinion. In terms of gamma results. Delle tre radici, una di queste è vista come un errore, una mancanza minore, ed è la Brahma, mentre le altre due, l'odio e l'illusione, sono viste come delle mancanze, degli errori maggiori. E questo in termini di risultati sociali e anche risultati karmici. No. Now, this is based on a passage in the Anguttara Nikaya, the third collection, Discourse 68. The Buddha instructs his disciples, saying, should there be some outsiders who will ask you, there are three states of mind, greed, hatred, and delusion, what is their distinction, what is their diversity, their difference? C'è un passo dall'Anguttara Nikaya in cui il Buddha dice ai suoi discepoli monaci: se qualcuno che è esterno al Dhamma vi chiede qual è la differenza fra queste tre radici. And so if you're questioned in this way, you should answer as follows. Se qualcuno vi pone questa domanda, dovreste rispondere in questo modo. And the answer, or the way to respond, is given by the Buddha: greed is a lesser fault and fades away slowly. La Brahma è un errore minore e svanisce lentamente. Hatred is a great fault and fades away quickly. L'odio è un errore maggiore, grande, e svanisce velocemente. Slowly. The delusion. No. Oh, wait, you said hatred? No. And hatred. Okay, sorry. I'm already ahead. And delusion is also a great fault, but it fades away slowly. E l'illusione è anch'essa un errore maggiore, ma svanisce lentamente. Now, the explanation here for hatred is as follows. A person commits, let's say, a crime, takes life, and out of hatred, and soon afterwards will regret certain what he or she has done. E viene data questa spiegazione: una persona colta dalla rabbia e dall'odio commette un omicidio, ma questa He kills, and soon will regret certain what he or she has done, and even ask for apology, or apologize for it. Ma subito dopo aver compiuto questo crimine colto dalla rabbia, si pentirà di ciò che ha fatto e chiederà anche perdono. Whereas in the case of greed, when we ardently desire something, then that greed will fade away only very slowly. We may hold on let's say, an ex boyfriend or girlfriend still for a long time. Mentre nel caso della Brahma, quando si desidera ardentemente qualcosa, questo desiderio se ne andrà molto molto lentamente. Ad esempio, Per fare un esempio, quando se nel caso di un compagno o una compagna che abbiamo avuto nel passato, il desiderio per questa persona può durare ancora a lungo nel tempo. Now, hatred causes sudden much disruption in the society. L'odio causa molta disordine nella società. And one would think that much emphasis should be placed on reducing hatred, yet in certain societies, hatred is being cultivated by certain organizations. E uno può pensare che vada ridotto l'odio, ma in alcune società invece l'odio viene fomentato, questo da parte di alcune organizzazioni. It's out of the hatred that wars get started, and human beings then kill each other. Ed è sulla base dell'odio che si intraprendono, si iniziano delle guerre e che gli esseri umani si uccidono l'un l'altro. Now, earlier on, there was a point that hatred influences our perceptions, and the perceptions in turn then influence our actions. So the mental factor of perception is a rather fragile factor that easily gets influenced. So if it gets influenced by hatred, then we cannot see the facts for what they are. Si è detto prima che l'odio influenza la percezione e di conseguenza le azioni che si intraprendono sulla base di questa percezione. La percezione è in effetti un fattore fragile che può essere facilmente influenzato. No, hatred, of course, hatred, aversion, anger, irritation, etc. These, of course, also occur in our meditation practice. E naturalmente l'odio, così come la rabbia, l'irritazione e tutte le altre sue manifestazioni, si verificano, accadono anche nella nostra pratica. Now, has the following ever happened to you? You sit in meditation, from the outside it looks so peaceful, but in your mind you're quarreling with another person. You might want to start a quarrel with another person. È mai capitato questa cosa? State sedendo in meditazione, dall'esterno sembrate molto pacifici, ma in realtà nella vostra mente state litigando con qualcuno o state pensando di iniziare a litigare con qualcuno. Has this ever happened? Vi è mai capitato? No, yes, never. Yes. Indeed. Certamente vi è capitato. In Lumbini we had one retreatant who was a specialist in this. Lumbini c'era un meditante che era uno specialista in questo. And it came up during many interviews. È una cosa che ha riportato durante molti colloqui. So, how can we experience the anger, aversion in the walking or in our meditation practice? So, for instance, in the walking practice, if there's a fellow yogi from whom, for some reason, it could be anything, we dislike, then we will, in subtle ways, always stay far away from that yogi. In quali modi si può manifestare l'odio nella nostra pratica? Ad esempio, nella pratica della meditazione camminata, se c'è un meditante che per qualunque ragione non ci piace, faremo in modo di stargli alla larga, in tutti i modi faremo sì di stargli alla larga. or in a meditation hall, those who dislike each other, they'll sit at opposite ends. Oppure nella sala di meditazione, due meditanti che non si piacciono si siederanno agli estremi opposti della sala. And that's or a similar effect you can see when it's time to take a group photo. Those who dislike each other will end up either one extreme or the other extreme. Una cosa simile si vede quando si fa una foto di gruppo. Quelli che non si piacciono si metteranno ai due estremi opposti. So those who like each other, they stand in the middle. Quelli che invece si piacciono stanno insieme nel mezzo. This is a personal observation, it's nothing scientific. Questa è un'osservazione personale, non c'è nulla di scientifico in questo. No, one would assume that a meditation center is a haven of peace. Gianni, would you say that's correct? Potrebbe immaginare che un centro di meditazione è un luogo, un paradiso di pace. Gianni, sei d'accordo? Yes, would you agree or not? Because it's silent. Oh, it's silent. Sembra che sia così perché è silenzioso. It seems that way, but so, then there, like in Burma, there have been cases of foreign yogis practicing in a hall with ceiling fans and being very hot. Some yogis really disliking the ceiling fans, and others very much liking the ceiling fans, and then getting into a fist fight over the ceiling fans. What really happened? Ci sono stati dei casi in Birmania con dei meditanti stranieri coinvolti. Alcuni meditanti detestano i ventilatori che stanno al soffitto, mentre altri meditanti li adorano. E quindi ci sono state delle lotte attorno a questi ventilatori. Long time ago, when I practiced at the Masi Center in Rangoon, Burma, there was a separate meditation hall for the foreign male yogis. And then I just barely got there, and then already there was a quarrel going on. So the issue was over the fluorescent lights, those tube putnet lights. Some yogis insisted that those fluorescent lights should be on early in the morning for sitting and during the last two sessions of the day. And some other yogi, however, or some other yogis felt that they should be off. And so the whole thing developed to a point where even some signatures were collected. Anni fa, quando sono andata a praticare in Birmania, c'era una sala dedicata ai meditanti stranieri e quando sono arrivata c'era già in atto una discussione, un litigio, e il problema era che alcuni ritenevano che delle luci fluorescenti che si trovavano al soffitto dovessero essere accese per la meditazione del mattino e della sera. Altri meditanti invece pensavano che dovessero stare spente, e la cosa si è protratta fino al punto che si fece una raccolta firme. No, because I had come to practice, I then soon left that hall and went and practiced in my room, which was much more peaceful. Ma siccome io ero andato lì per praticare, ben presto ho lasciato quella sala di meditazione e ho continuato a meditare nella mia stanza, che era molto più pacifica. Now, there's certain other cases in the life of a retreatant on retreat, where anger comes up. So it could be aversion towards certain the flies. It could be aversion towards mosquitoes. It could be aversion towards extremely slow or fellow yogis who are moving at snail pace. You urgently want to get to the bathroom, or let's say to the meditation hall, and you've got such a yogi in front of you. It takes half an hour to get there. Ci sono tante occasioni in cui può sorgere rabbia durante la pratica di meditazione, ad esempio quando ci sono delle mosche o delle zanzare che ci ronzano attorno, oppure quando incontriamo uno di quei meditanti che si muovono a passo di lumaca. Magari vogliamo urgentemente andare nel bagno, nella sala di meditazione, ci troviamo uno di questi meditanti davanti e ci mettiamo mezz'ora. So then, what Satna to do about Satna, this root of unwholesomeness, namely hatred? Quindi che cosa fare rispetto a questa radice della non salutarità, cioè l'odio? So, first of all, we can turn to the Satipatthana Sutta, once again, the section on Dhammanupassana. So, mindfulness of the hindrances, hatred is one of them. In primo luogo possiamo rivolgerci al Satipatthana Sutta, nella quarta sezione di Dhammanupassana, nel passo che si riferisce agli ostacoli, l'odio è uno di questi. And Satna, then, just Satna has given yesterday, first Satna, we want to be mindful of whether hatred is present or not, so the presence-absence condition. Quindi, come abbiamo già visto ieri, in primo luogo vogliamo essere consapevoli della presenza o dell'assenza dell'odio. The third instruction is, if partner hatred is arising, to know the conditions that lead to the arising of ill will. La seconda istruzione è, nel caso in cui sorga l'odio o la malevolenza, essere consapevoli di quali sono le condizioni che favoriscono e causano il sorgere, il suo sorgere. And certainly some reasons for the arising of hatred have been given already early on in the talk. E abbiamo già illustrato prima alcune cause che possono far sorgere l'odio. No. If certain hatred is present, currently present, then for us to know the conditions that lead to the removal of certain hatred. La quarta istruzione è se l'odio è già presente, conoscere quali sono le condizioni che causano il suo cessare. And certainly, so with regard to this, we can turn into the Samyutta Nikaya, that I think it's the Bhojanga Samyutta, that certainly speaks of the nourishing and the denourishing of ill will. The denourishing of ill will happens certainly through loving kindness. E per questo possiamo rivolgerci a un passo dalla Samyutta Nikaya, in cui si dice che si parla di come si toglie il nutrimento e di come si nutre l'odio. Il modo per togliere il nutrimento all'odio è la gentilezza amorevole. And so, if one develops certain loving kindness towards oneself, to others certainly involved, then sooner or later hatred will subside. Se una persona irradia gentilezza amorevole verso una persona che è oggetto di odio, prima o poi questo odio cesserà. Now, once the hatred has been removed on a temporary basis, not permanent basis, then to know the conditions that lead to a permanent removal of it. Namely, in the case of hatred, this is the attainment of the third path of enlightenment, Anagami Hood. E poi, una volta che l'odio è stato soppresso su base temporanea, conoscere quali sono le cause per una sua soppressione permanente, quindi per il suo sradicamento. E nel caso dell'odio si tratta del raggiungimento del terzo sentiero, quello della, di colui che non ritorna. The commentary to the Satipatthana Sutta proposes a few other approaches. Namely, it says learning how to meditate on loving kindness. Learning how to do metta meditation. E altri suggerimenti che vengono dati sono di imparare come praticare la meditazione di gentilezza amorevole. And then secondly, actually practicing it. Poi praticarla di fatto. And realizing or considering that in the end one is the owner of one's actions. So if one acts out of hatred, one harms others, in the end one is going to bring harm, one is going to heap harm onto one's own head. E poi comprendere che in ultima ognuno è l'erede delle proprie azioni, quindi se una persona colta dall'odio fa del male, danneggia qualcun altro, alla fine sarà lui a subire le conseguenze dell'azione che ha commesso. And such a noble friendship and listening to a talk on loving kindness and hatred are said to be further ways of overcoming hatred. Avere delle amicizie nobili e ascoltare un discorso sulla gentilezza amorevole sono altri modi per togliere nutrimento e energia all'odio. Now, something beautiful. The connection here between an ethical conduct, moral conduct, and sudden hatred. C'è una cosa bella qui, la connessione tra la condotta morale e l'odio. Namely, a passage from the fourth volume of the Anguttara Nikaya, section 246. Un passo dall'Anguttara Nikaya, secondo 246. Here, a noble disciple, having abandoned the destruction of life, abstains from the destruction of life. Qui un nobile discepolo, avendo abbandonato la distruzione della vita, si astiene dalla distruzione della vita. By abstaining from the destruction of life, the noble disciple gives to an immeasurable number of beings freedom from fear, enmity and affliction. Astenendosi dal togliere la vita, un nobile discepolo dona agli esseri libertà dalla paura, dall'inimicizia e dalle afflizioni. The Pali for this is abhyam deti, aveyam deti, abhyapajam deti. Questi sono i termini Pali. Oneself in turn enjoys immeasurable freedom from fear, enmity and affliction. E così egli stesso sperimenta immeasurable freedom. Una libertà from fear, enmity and affliction. diciamo, infinita, che non si può misurare, dalla paura, dall'inimicizia e dalle afflizioni. And suddenly the passage concludes by saying, this is a first, a great, certain gift of long-standing, traditional, ancient nature. E si conclude questo passo dicendo che it's a first great gift. Questo è un gift, è il primo dono, è un grande dono. And of a long-standing, traditional nature. Di lunga tradizione. Mm-hmm. Now, early on, the importance of perception was mentioned. If our perception is tainted by hatred, well, then we will see the world with glasses of hatred or through glasses of hatred. But if our perception is tainted through colored, through non-hatred, so loving kindness, then we will see the world in a different way, in a positive way. Si è parlato prima dell'importanza della percezione, di come la percezione può essere legata all'odio. Quindi se la nostra percezione è vincolata all'odio, allora vedremo tutto attraverso, diciamo, degli occhiali di odio, mentre se la nostra percezione è legata al non odio, vedremo tutto in una maniera invece positiva. Now, this brings us to the end of today's Dhamma talk on the second greed of unwholesomeness, namely hatred, and what has been said may be useful to your meditation practice during this retreat, but may it also be useful outside of Fatna retreat. May it help you to quickly spot the hatred, and then may you know what to do, how to deal with the hatred every time it comes up, and with this may more and more purity come into your life, and eventually may the peace of Fatna Nibbana occur that is free from hatred. Questo ci porta a concludere il discorso sulla seconda radice della nostra lotterità, cioè nell'odio, e permettetemi di augurarvi che ciò che è stato detto vi sia utile nella pratica della meditazione, così come nella vita quotidiana, che siate in grado di cogliere subito l'odio quando sorge e che sappiate come affrontare e che cosa fare quando l'odio sorge, e che questo vi porti a sviluppare purezza e che infine questo vi conduca a sperimentare la pace del Nibbana, che è libera dall'odio. And that's it. Do you have any questions or comments? Ci sono domande o commenti? Yes, Gianni. Seems to strange to me that craving is considered a minor fault. Since there is a greed. Because of dukkha. In the second module. Yeah, right. Well, it's considered a minor fault in terms of public opinion and in terms of karmic results. Quindi la domanda è, mi sembra strano che la brama sia considerata un errore minore. E la risposta è che è in quanto è la causa della di dukkha e quindi come affermato nella seconda nobile verità. E la risposta è che è considerato un errore minore in termini di, quindi, rispetto a all'impatto sociale, alla di reputazione sociale e in termini di risultati karmici. Oh, when it comes to greed, that leads, let's say, to embezzlement, like politicians misappropriating big amounts of money. There will be some, the government will crack down on it and will take some action, but it will not be as severe as certain if someone has taken the life of another being. Quindi, per fare un esempio, se dei politici si appropriano indebitamente di denaro pubblico, questo certamente ha delle conseguenze gravi a livello economico in quel paese, ma non sarà, in termini di risultati economici, non sarà così grave come se una persona toglie la vita ad un'altra persona. That's at least one way of explaining it. Quindi questa è una spiegazione. I have a question. Yes, let's hear. You said that the remedy for hatred is non-hatred, loving kindness. But in a situation where you are angry because an injustice is being done to you and a group of people, perhaps, like an example, then maybe you need to take some action. Mm-hmm. So is that ever how to feel about that? No, then it doesn't, no, loving kindness doesn't exclude taking an action. But when you take the action, you want to be sure that it's based on loving kindness and not that you're not acting out of hatred. No, because if you act out of hatred, then the situation might get worse. Then you have hatred versus hatred. And suddenly that suddenly will just worsen things. But if you are seeking, trying to address certain social injustice situation out of loving kindness is certainly usually more successful. You should try to the person or the system or that whatever is you're fearing that's making injustice to you, you should try to change your mental attitude to have loving kindness. But you can still go and do whatever is necessary and take some social action, and but certainly do it not out of hatred but out of loving kindness. No, it will make a big difference. Yeah, sure. Sure, that's usually what it is. Because, sometimes we, like to say, we feed the anger and we almost enjoy feeding the anger. Yes, right. But not nicely. Yes, right. Indeed. Anything else? Should I translate? Yes. Okay. Quindi questa domanda riguardava l'odio, la gentilezza amorevole come antidoto all'odio, ma nel caso di un odio che sorge perché c'è un'ingiustizia che viene fatta a se stessi o ad altri, si vorrà intraprendere un'azione, quindi come fare? E Bhante risponde che non avere la gentilezza amorevole non esclude che si possa anche intraprendere un'azione, ma è opportuno intraprendere questa azione non sulla base di odio, ma sulla base invece di gentilezza amorevole, e quindi cambiando, diciamo, la propria attitudine nei confronti della situazione e agendo sulla base di gentilezza amorevole, questa azione avrà un risultato sicuramente più efficace che un'azione intrapresa sulla base dell'odio, la quale porterebbe solo a peggiorare le cose. Thank you so much. Okay, maybe this much for tonight. Ci fermiamo qui.